città di San Benildo. Pietro Romanson, questo era il nome del nostro futuro San Benildo, nacque in una famiglia contadina ma discretamente agiata a Touré, un piccolo villaggio dell'Alvenia in Francia, siamo nel centro della Francia, il 14 giugno 1805. Pensate, stavo dicendo prima un grande maestro, 10 anni dopo nascerà San Giovanni Bosco. E crebbe proprio il nostro santo in questo paese a Touré, un paese che aveva conosciuto gli orrori della rivoluzione francese, era finita da pochi anni, da 6 anni, distruggendo e incendiando cuore e anime, come sappiamo, nella sua diabolicità. Ma gli abitanti di questo paese, il particolare di questo paese, è che gli abitanti anche allora, anche a costo della vita, restarono fedeli al Papa, alla Chiesa Cattolica, e in quel tristissimo periodo non andavano nella parrocchia che era allora guidata da un parroco giurato. Giurato, cioè, erano quei sacerdoti che cedevano alle minacce o anche agli onori, no? Che venivano fatti dai governanti di allora, aderendo alla nuova Costituzione civile del clero. Quindi, in pratica, giuravano non a fedeltà al Papa, ma allo Stato, e diventavano praticamente dei funzionari statali. Questo erano, perché era lo Stato che decideva cosa dovevano fare. Quindi questi cittadini di Touré iniziarono a disertare la parrocchia, ma a frequentare invece di nascosto un altro sacerdote che era fedele al Papa, che celebrava nascostamente, in modo clandestino, lo avrebbero ammazzato, spostandosi di continuo in quelle zone per non essere catturato. Insomma, questo era il clima di religiosità in cui nacque il nostro San Benildo, che nel frattempo da bambino iniziò anche a frequentare la scuola. Era un bambino attento, intelligente, era sempre uno dei primi della classe, benché fosse costretto allora ad assentarsi per occuparsi in alcuni periodi del pascolo o dei lavori dei campi per aiutare la famiglia. Questo purtroppo allora sappiamo che era piuttosto diffuso, cioè molti bambini non andavano neanche a scuola, cercavano di aiutare la famiglia portando a casa il pane o facendo un lavoro. Parlando della famiglia del nostro santo, sia il papà che la mamma, che anche i 4 fratelli, vivevano un clima profondamente cristiano, erano cristiani veri fino in fondo, soprattutto, lo abbiamo visto durante la rivoluzione francese, non avevano mai indietreggiato, e avevano imparato questi bambini, dalla mamma in modo particolare, a pregare, guardando l'Eucaristia, il tabernacolo, a soffrire anche, pensate, la mamma gli faceva capire la sofferenza che si donava a Gesù per amore suo, la grandezza che aveva, e lui in modo particolare non prendeva le cose alla leggera, tanto che per amore di Gesù e spirito di penitenza, pensate, per tutta una vendemmia, quell'anno era stata particolarmente scarsa, questo era un grande guaio, si astenne dall'assaggiare l'uva alla semplice raccomandazione dei genitori. Insomma, possiamo dire che era già sulla via di una donazione al Signore. E arrivò un giorno, lui era ancora un bambino, e un giorno che, diciamo, fece iniziare il suo cammino. Infatti, dopo la prima comunione, un giorno si recò con la mamma alla fiera di Clermont. Clermont era, diciamo, la cittadina più grande che faceva un po' da filiera a tutti quei paesini intorno. E a Clermont c'era un santuario molto famoso, il santuario di Nostra Signora del Porto. E lui, Pietro, il nostro futuro San Benildo, rimase colpito dall'aspetto devotissimo, di grande umiltà, ma anche di una carità che traspariva dal viso di questo, era un fratello delle scuole cristiane, che veniva loro incontro sorridente con la corona del rosario in mano. Lui era curiosissimo, perché ne restò profondamente colpito, dicevamo, e la mamma gli spiegò che questi erano i discepoli di San Giovanni Battista della Salle, che aveva fondato questa congregazione. Fra parentesi, San Giovanni Battista della Salle, sappiamo che Pio XII nel 1950 lo proclamò patrono di tutti gli insegnanti, e quindi i suoi figli spirituali, diceva allora la mamma, avevano la missione di fare scuola per amore di Dio, specialmente i fanciulli poveri. Infatti tantissimi fanciulli non andavano a scuola al di là perché dovevano lavorare, ma anche perché non avevano la possibilità le loro famiglie di dargli dei maestri, di pagarli. Allora Pietro, con aria pensosa ma anche soddisfatta, esclamò, quasi profeticamente, no? Così, mamma, voglio essere anch'io. Ma la mamma in quel momento non diede peso a queste parole. Poco dopo questo fatto, i fratelli delle scuole cristiane, questa congregazione, aprì proprio nella vicina cittadina di Lyon un loro istituto e la famiglia di Pietro volle affidare proprio ad essi l'educazione del loro bambino. E lui ebbe così modo di conoscere e di capire meglio anche la sua vocazione e di seguirla. Pensate, è curiosa questa cosa. Era troppo basso di statura e per questo motivo gli fu posticipata l'entrata in noviziato. Ne soffrì molto, aveva 13 anni e pregò il Signore così: Signore, voi mi potete consolare, io non vi chiedo che una cosa sola, di salvare la mia vocazione. Lui sentiva nel cuore fortemente questa donazione al Signore con l'ingresso in questa congregazione. Insomma, passarono 2 anni, alla fine anche i fratelli delle scuole cristiane capirono il desiderio forte, anche la carità ardente, anche nella preghiera di questo ragazzino di ormai di 15 anni, e dopo 2 anni, aveva appunto 15 anni, iniziò il suo noviziato a Clermont, siamo nel 1820, e quando uscì di casa la mamma gli disse: va Pietro e sii un santo fratello, è Dio che ti chiama. E proprio nella vestizione religiosa prese il nome di Fratel Benildo e tenne fede fino in fondo al suo cammino religioso con un continuo, possiamo dire, volontario annientamento, una grandissima umiltà e annientamento di sé, e pur affrontando molte prove raggiunse, cari amici, altezze e virtù eroiche. Non gli mancarono ovviamente momenti di buio, di grande sconforto, ma li superò in modo particolare con la preghiera e affidandosi alla Vergine Maria e a San Giuseppe, di cui lui era molto devoto, e aprendosi anche col suo direttore spirituale. Uno di questi momenti di sconforto fu quando il papà, dinanzi all'incubo della vecchiaia che si stava avvicinando, era andato a trovarlo per convincerlo a tornare in famiglia. Ma egli, pur amando molto il papà, non poteva dirgli di sì. La consacrazione a Dio è per tutta la vita. Infatti lui più tardi dirà: preferirei morire piuttosto di tradire la mia fedeltà alla chiamata divina. Ma il padre non si arrese. Per una seconda volta, alla morte della mamma, andò a trovarlo e cercò di convincerlo che avrebbe fatto meglio a lasciare i fratelli delle scuole cristiane e a restare con lui a casa. Ma anche questa volta, pur con una grande sofferenza nel cuore, la risposta di San Benildo fu negativa. Nel frattempo, terminato il noviziato, anziché riprendere subito gli studi, fu inviato dai superiori alla scuola dei piccoli, dei bambini di Aurillac, tanto era grande allora, in quella provincia religiosa, il bisogno di evangelizzare, di avere soprattutto buoni maestri. Dicevamo che era passato da poco il vento malefico della Rivoluzione francese, quindi aveva davvero fatto fuori ogni tipo di bontà, di cultura sana, di santità. E proprio da questi alunni, da questi bambini, il nostro santo fu profondamente amato, sia per l'impegno che metteva nel preparare le lezioni, cercando di metterli a loro agio, ma anche di farli crescere, ma anche temuto perché non disdegnava di essere severo quando era il caso. E ai suoi fratelli, suoi confratelli, esposti come lui al pericolo di qualche temperanza, perché c'erano ragazzi anche piuttosto collerici, anche ostili a volte, lui, perché non trascendessero, diceva: correggiamo il male in quelli che il cielo ha affidato alla nostra guida, ma non offendiamo mai il Signore. E possiamo dire che in quegli anni, il periodo che intercorse dal 1825 al 39, oltre che diciamo, riguardava l'insegnamento che lui comunque continuò a fare, fu anche quello di maggior crescita e di maggior umiltà, perché pur non lasciando mai del tutto, dicevamo, l'insegnamento, egli divenne su comando dei superiori, divenne all'occorrenza portinaio, cuoco, giardiniere a Moulins, a Limoges, in questi luoghi in cui erano i fratelli cristiani, a Clermont, a Montferrand. Insomma, ai desideri dei superiori non si rifiutava mai, perché in essi e nella regola vedeva solo ed esclusivamente la volontà di Dio. Proprio per la sua capacità, per il suo saper fare, saper costruire, possiamo dire che era un Don Bosco novello in questo caso. A 2 anni proprio della professione religiosa perpetua, i superiori lo fecero direttore della piccola scuola di Billonne, ma egli ne restò costernato, no? Non si sentiva degno di assumere quella posizione così importante, anche piena di responsabilità, che pensava superiore alle sue forze. Non erano poi tempi facili, dicevamo, cari amici. Infatti la scuola locale laica faceva una lotta aperta all'insegnamento e anche all'educazione che i fratelli delle scuole cristiane impartivano ai bambini, ai ragazzi. E qui proprio i superiori, proprio per, dicevamo, la stima che avevano di lui, ritennero opportuno inviarlo in quella scuola, perché lo sapevano dotato innanzitutto di una santa vita, ma anche di un grande equilibrio, cosa non da poco, e anche di mano severa, quando era il momento. E possiamo dire che fu un direttore severo, ma allo stesso tempo anche amabile. A un confratello aveva una grandissima sensibilità e una finezza d'animo veramente particolare. In modo particolare amava moltissimo i suoi bambini, i suoi alunni. A un confratello che non aveva restituito il saluto a un bimbo incontrato in strada, disse, anche con affetto però gli disse, avrebbe dovuto salutare almeno il suo angelo custode, come per dire, il minimo era quello di ricambiare il saluto che il bimbo stesso aveva fatto. Ma questo è per descrivere, sono delle piccole cose, ma per descrivere anche la grandezza di questo santo. Come poi voleva e desiderava una grande diligenza professionale nell'insegnamento, così però chiedeva altrettanta risposta da parte degli alunni. A quelli della sua classe diceva spesso, se talora vi punisco, e lo faceva poche volte, è perché vi amo, quindi desiderava costruire con loro, proprio per far capire anche a volte, proprio quando non poteva farne a meno, prendeva magari delle decisioni un po' severe, ma era per farli crescere. E in effetti gli stessi suoi allievi erano, tra virgolette, costretti a confessare, dice, che malgrado il suo giusto rigore, egli era un santo. Sapeva tirar fuori da loro il meglio di loro in ogni circostanza, ma in modo particolare sapendo anche le incomprensioni che vivevano quei ragazzi, anche la povertà che vivevano nel loro quotidiano, e non era facile, lui li incoraggiava, era vicino a loro, soprattutto nelle difficoltà, però era presente in modo totale, non a pezzettini, non soltanto perché bisognava essere, diciamo, disponibili e accontentarli, li faceva crescere, come un buon papà o una buona madre fa. E pensate, aveva con il suo modo di fare talmente conquistato i cuori delle famiglie di quel luogo, che all'inizio del secondo anno, proprio sotto la sua direzione, il numero delle classi fu raddoppiato. Ma non faceva cose particolari, al di là, diciamo, di quello che era l'insegnamento. A loro, in modo particolare, cari amici, parlava di Dio. E proprio la sua anima traboccava di una preghiera ardente e di una bontà che conquistava le persone. Questo ci viene detto nelle testimonianze. Alla sua presenza i confratelli e i genitori degli alunni sentivano chiaramente che la terra, diceva, non era nulla per lui. Mentre qui ormai aveva, diciamo, creato un certo campo di lavoro, no? Con grandi frutti, ad un tratto arrivò l'ordine dal superiore generale, qui dopo appena 2 anni, lo designava alla fondazione di una nuova casa a Sogu, nella diocesi di Lepuy in Alta Loira. Scuola, questa sollecitata e finanziata dal sindaco della città allo scopo di togliere dalla strada tanta gioventù finita, insomma era a rischio, era veramente a rischio, oltre a tanti ragazzi poveri che non avevano cultura, non sapevano cosa fare, no? Fratel Benildo allora volle per prima cosa consacrare la casa a San Giuseppe, verso il quale, come dicevamo prima, nutriva una tenera devozione. Dicevamo, cari amici, si raccomandava molto a San Giuseppe perché lo sapeva potente intercessore presso il cuore di Gesù e insieme alla Madonna, insomma, chiedeva loro di aiutarlo in questo cammino assolutamente non facile, soprattutto perché si trattava di crescere e di far crescere anche nella coscienza, nella cristianità, dei bambini che di cristiano avevano poco o nulla perché non avevano nessun tipo di insegnamento. E anche qui la sua opera, illuminata proprio dalla luce della preghiera, fece sì che molte famiglie iscrivessero i propri figli e gli alunni che erano distribuiti all'inizio in 2 classi salirono presto a 300. Pensate, c'erano solo 3 fratelli delle scuole cristiane su 300 ragazzi. Era un lavoro immane, ma lui non fece un passo indietro, ma neanche a morire. Anzi, il suo desiderio era quello di erano in 3 e in 3 dovevano portare avanti tutti questi ragazzi, facevano dei turni, no, per quanto riguardava l'insegnamento, in modo da poter coprire tutti. Dicevamo che questa era una terra difficile rispetto a quella in cui lui era nato, questa località, e infatti i ragazzi si mostravano ribelli perché non erano stati educati e proprio neanche alla fede, no? Dicevamo appunto per quello che erano stati gli anni devastanti precedenti. Erano ribelli, ostili, oltraggiosi anche, non era affatto facile. Ma lui, per non far sì che il vizio fosse premiato, magari nell'essere troppo mielosi, e la virtù derisa, si mostrò subito buono con i diligenti, ma severo, anche se costruttivo, con gli indisciplinati. E raggiunse il suo scopo. Un esempio fu un giorno, dovette allontanare purtroppo, e questa è una cosa che gli costava grande sofferenza, allontanare dalla scuola un ragazzo ribelle, veramente uno scapestrato possiamo dire, e il ragazzo si vendicò scagliando contro di lui 3 gattini che aveva appena ucciso, pensate, lanciandoli contro San Benildo che era a insegnare a un gruppo di bambini disabili in giardino il catechismo. Qui perché lui, per quanto riguardava il catechismo, voleva che tutti fossero, se nella scuola si faceva un po' più fatica, nel catechismo voleva che tutti fossero allo stesso livello, cioè che tutti imparassero, che tutti comprendessero la parola di Dio, almeno per quanto era possibile per l'età che avevano. E cosa successe? Che il padrone per il quale questo ragazzo lavorava come garzone, che aveva naturalmente un grande ascendente nei confronti di questo ragazzo, saputo l'accaduto, proprio per la stima che aveva di Fra Benildo, prese il ragazzo e glielo condusse davanti perché gli presentasse le sue scuse. San Benildo, invece di rimproverarlo, sorprendendo tutti, accolse questo ragazzo con una amabilità che gli toccò il cuore. Toccò il cuore anche con quelle parole, lo prese da parte, gli parlò, insomma, lo invitò addirittura a pregare con lui facendogli dono di una corona del rosario. Fatto sta che il cuore di questo ragazzo cambiò, perché in effetti la grazia ti conquista e lui sapeva, cioè, e aveva questo dono, il dono della santità era una luce che coinvolgeva i cuori e quindi cambiava i cuori. E quante conversioni ci sono state in quegli anni lo sa soltanto Dio, ma in effetti il suo camminare in mezzo alle persone, in mezzo a quel paese, a quelle cittadine, era una luce che portava speranza, portava consolazione e pace. Mi ricordo un po' Radio Maria, ma in effetti era così. In paese però, e questo è un fatto che succedeva spesso, in paese non erano pochi quelli che non vedevano di buon occhio i frati e anche la religione. Quindi cosa succedeva? Che c'erano molte critiche, accuse infamanti a volte, ma il nostro santo si limitava a dire solo una frase: Dio sia benedetto, e non indietreggiava, andava avanti tranquillamente offrendo al Signore, certo che ferivano certe calunnie, no? Con cui cercavano di infangarlo, metterlo in cattiva luce. Ma succedeva che con grande disappunto dei suoi detrattori, al contrario, veniva molto amato da parte di buona parte dei genitori, dei ragazzi, i quali dicevano questi genitori: abbiamo un superiore della nostra scuola c'era, diciamo, buona parte dei genitori, dei ragazzi che lui aveva a scuola, dicevano, al contrario delle calunnie infamanti che cercavano di infangarlo, dicevano: abbiamo superiore della nostra scuola un fratello, piccolo di statura, ma grande in tutto il resto. Egli educa e istruisce in modo ammirabile i nostri figli, è pieno di scienza e parla di Dio come un santo, non è altezzoso e riceve tutti con bontà. Ha una fedeltà assoluta per la sua regola e nulla può smuoverlo. È pio come un angelo. Non abbiamo mai avuto un maestro come lui e voglia il cielo conservarcelo per il nostro bene e per l'onore della nostra terra. Questo ci dà l'idea di come era vista da buona parte della gente, delle persone di questo paese. E qui a Sugu San Benildo rimase per la bellezza di 21 anni, restò direttore della scuola e proprio la sua vita e il suo esempio, pensate, dicevamo prima questa luce che conquista i cuori, no? La luce della grazia, fece maturare circa 300 vocazioni nel suo istituto e altrettante al sacerdozio e anche in altri ordini religiosi. I ragazzi vedevano lui un esempio e quindi come lui desideravano portare il bene, la bontà, l'amore verso tanti fratelli. Dicevamo prima che era molto devoto a San Giuseppe, per questo aveva stabilito che tutti i mercoledì, come sappiamo il mercoledì nella tradizione cattolica è il giorno di San Giuseppe, tutti i mercoledì nelle varie classi voleva che gli alunni recitassero una preghiera speciale e questa preghiera terminava con questa invocazione: grande San Giuseppe, fammi conoscere la mia vocazione. E non era una cosa da poco, perché comprendere la mia vocazione qual è quella che mi spiana il sentiero della vita per cercare di lavorare bene su quello che dovrà essere il mio futuro. È la via giusta, la strada giusta. E questo lo faceva con gli amici perché amava profondamente i suoi scolari, voleva effettivamente solo il loro bene, ma il papà e le mamme l'avevano capito benissimo. E parlava proprio loro di Dio come pochi sacerdoti sapevano fare, toccando i loro cuori, inducendo al bene e alla bontà di cui allora c'era tanto bisogno. E tutti erano stupiti allora in paese, anche chi non credeva, chi lo criticava, erano stupiti per la chiarezza, per la semplicità con cui, anche se era un uomo di cultura, sapeva dialogare con gli altri, in modo particolare con i bambini, con i ragazzi, e li faceva ragionare, soprattutto approfondendo la loro fede, il loro cammino di fede e parlando dei novissimi. Moltissimo insisteva sotto questo aspetto, sui novissimi. Era una cosa fondamentale, importante. È triste che oggi proprio i novissimi siano ormai un discorso quasi caduto, no? Se ne parla talmente poco che è grandemente triste questa cosa, diciamocelo. Ma ritornando ai suoi ragazzi, ai suoi allievi, uno di loro, parlando a nome di tutti, ormai adulto, ormai fatto grande, disse: noi tutti amavamo più di ogni altra cosa i suoi catechismi, il suo metodo, la sua pietà. Tanto ci interessava che lo divoravamo con gli occhi. E lui, San Benildo, faceva di tutto perché questi ragazzi crescessero con una coscienza retta, con la coscienza di essere cristiani, di vivere il Vangelo, portando soprattutto nella società di allora scristianizzata, in buona parte, quei valori che donavano la pace, la serenità della vita, soprattutto la speranza. Cos'è un uomo senza speranza? Questo non gli impediva, ecco, quando era il caso, di usare, dicevamo, anche severità, per non farli deviare dal giusto cammino. Ai suoi collaboratori diceva: la sorveglianza è un atto di affetto verso i nostri alunni e specialmente verso le loro anime. Procuriamo che esso sia un atto soprannaturale, cioè che sia una missione il nostro insegnare, non un lavoro, che è una cosa ben diversa in questo senso. Viene vissuta e vista in modo diverso, ma soprattutto chi la accoglie, questa missione, questo lavoro, questo insegnamento, l'accoglie cambiando il cuore. E parlando sempre con i suoi confratelli, altre volte li esortava a considerare i propri allievi come, diceva, degli infermi che hanno bisogno continuamente delle cure di tutti, del medico. Infatti molti erano ragazzi anche sbandati, lasciati soli, quindi non era facile aiutarli. E lui non amava, ci viene detto, gli educatori deboli di volontà, che volevano essere troppo mielosi e poi facevano il male dei ragazzi. Ed era così stimato, questa è una cosa veramente sui generis, era così stimato anche dell'autorità del luogo, cosa rara a quel tempo, che le stesse autorità, pensate, proprio per mezzo dell'Accademia di Clermont, qui c'era un'università, lo insignirono della medaglia d'argento con diploma, proprio per riconoscere il frutto grande del suo metodo di insegnamento. Ma lui si scherniva per questi riconoscimenti che francamente non gradiva e non voleva, però non voleva neanche essere maleducato, no? Quindi li accoglieva e basta, ma superato il momento non voleva neanche più parlarne. Ma anche oltre alla formazione, diciamo, dei ragazzi, anche nella formazione religiosa e nell'insegnamento dei fratelli, San Benildo fu un grande maestro. Ebbe sempre grande rispetto delle loro iniziative personali, parliamo dei confratelli e dei novizi, e fu anche giusto nel distribuire le responsabilità di ciascuno. Con essi non andò mai quella che era la familiarità permessa, quindi non ci fu nessun eccesso, ma ebbe sempre il dovuto rispetto, ci viene detto, di chi sa di trattare strumenti eletti da Dio per l'educazione della gioventù. E come superiore, di fronte ad una mancanza alla regola, non transigeva. Questo con disappunto anche di qualche religioso tiepido che, ci viene detto, allora diceva: Sogu è un secondo noviziato dei fratelli. Insomma, non scherzava lui, ma era anche una crescita, no? Per tutti quanti. E benché paterno, sempre pronto ad ogni sacrificio per aiutare i confratelli che amava profondamente, non volle mai esserlo a spese della regola, e nonostante la sofferenza sincera, grande, che provava quando alcune volte doveva richiamarli, no, al dovere, era una cosa che veramente gli costava tanti, doveva violentarsi per fare questa cosa, ma non poteva evitarlo, non trascurava allora anche di assegnare penitenze, attenendosi alle tradizioni anche più rigide del suo istituto. E a chi infine dava segni di fatica o si lamentava per il troppo lavoro, lui diceva: il riposo ci sarà nell'eternità. sapeva che aveva una grande responsabilità, in modo particolare anche verso i confratelli, ma anche se con loro era esigente, lo era molto di più con se stesso. Un test al processo canonico disse: il peccato e lui erano come l'acqua e il fuoco. Quando gli avveniva di cadere in qualche imperfezione o anche di sbagliare, per esempio, nel suono della sveglia mattutina, ne chiedeva perdono, in pubblico, incrociando le mani sul petto e baciando la terra in segno di penitenza. E quel giorno i pasti, già ridotti, perché non è che c'era granché da mangiare, ridotti della loro già scarsa consistenza, erano consumati da lui in ginocchio. E quando c'erano tempi di gravi necessità per la sua famiglia religiosa, San Benildo si prostrava in segno di penitenza ma anche di umiltà alla porta del refettorio e attendeva al passaggio i suoi fratelli per baciare ciascuno di loro i piedi. In omaggio poi alla regola che amava profondamente, non mangiò mai fuori pasto e mai fuori pasto bevve anche solo un goccio d'acqua nella sua estiva. Anzi, i suoi digiuni occupavano con vario rigore 4 mesi all'anno. Portava il cilicio e si flagellava sovente nonostante i reumatismi e il corpo anche martoriato da un penoso cauterio, dormendo sopra un semplice saccone imbottito di stecche di legno. Era una penitenza continua questa, eh? Proprio l'amore però per Gesù lo portava a donare tutte queste penitenze come un mazzo di rose, un mazzo di fiori per il Signore. E lo faceva con gioia, con contentezza. E per quanto riguardava la povertà, benché dovesse ricevere frequentemente i genitori degli alunni della scuola, vestì sempre da povero, con abiti lisi, già usati da altri e anche rattoppati, ma sempre puliti. E per spirito di povertà cucì e rammendò la sua biancheria, ma anche quella dei fratelli occupati nell'insegnamento. In questa grande carità, aveva una carità immensa questo santo, provvedeva, pensate, in segreto a tutti gli oggetti, anche scolastici, per i bambini che erano meno abbienti, che erano poveri, non potevano comprare neanche quel minimo per poter andare a scuola, oppure aiutava tutti quelli che erano caduti anche nell'abbandono, nella povertà, molte persone di quel paese. Anzi, a questo proposito diceva spesso: i poveri sono i miei fratelli. E per sfamarli si privava lui delle pietanze, di quelle poche pietanze che aveva, diciamo, all'interno della comunità. Oppure per sollevarli nelle loro malattie, cosa faceva? Faceva ricorso al dono che aveva delle guarigioni che il Signore gli aveva dato. Quante volte è andato proprio dagli ammalati, abbandonati a se stessi nei loro tuguri, e a cui nessuno più faceva, erano condannati a morte, no? Erano lì, in attesa di una morte, oppure chi non poteva curare i bambini, tanti papà, tante mamme, e lui cosa faceva? Pregava il Signore di guarirli, e lo faceva, otteneva queste grandi grazie, a volte dei miracoli, miracoli veri. Pensate però, l'anima di tutta questa grande, enorme attività, di tutta questa grazia, era l'Eucaristia. Era perennemente presente davanti al tabernacolo, era il suo amore. E lo stesso l'amava a tal punto che lo stesso parroco di Sogù non aveva saputo resistere proprio a questa spinta d'amore che fratel Benildo aveva per l'Eucaristia. Aveva dovuto concedergli la comunione quotidiana, rarissima a quei tempi, anche a causa dello spirito giansenista che predominava nella mentalità del clero di allora, soprattutto in Francia, come sappiamo. Quindi la comunione allora si faceva quando uno pensava di essere perfetto, praticamente o mai o una volta ogni tanto, no? Perché si vedeva Dio come un giudice, quindi io non sono degno lì, invece l'Eucaristia si va con umiltà, con la confessione, con i dovuti modi, è la medicina che ci aiuta a rimetterci in salute. E qui proprio dopo averla ricevuta la Santa Comunione, San Benildo spesso piangeva per la gioia che ne provava, era Gesù che gli toccava il cuore. E lungo la giornata, in tutti i ritagli di tempo, erano piccoli perché provate solo a pensare quanto era il suo insegnamento durante la giornata, si precipitava, ci viene detto, in cappella a pregare davanti al tabernacolo e pregava per la conversione di tanti fratelli peccatori lontani da Dio e soprattutto per le necessità dei bambini e di tutti i suoi confratelli. E proprio davanti al tabernacolo era talmente immerso nella presenza di Dio che sentiva il bisogno, prima di prendere posto nel banco, di prostrarsi e baciarne il pavimento. In quel momento nel suo cuore erano presenti in particolare i dolori di Gesù. Proprio essi erano l'oggetto della sua meditazione in quei momenti. Ed era così grande questo suo amore per il Signore che alla lettura della passione del sacrificio che Gesù ha fatto per noi, non di rado fu visto versare abbondanti lacrime, questo anche alla presenza di diverse persone. Per vederlo pregare, pensate, era talmente meravigliosa questa luce che emanava, questa grazia, per vederlo pregare addirittura i novizi chiedevano talvolta il permesso di andare in cappella e quindi di fargli compagnia. E proprio la preghiera, sincera, viva, fatta col cuore, riempiva la sua vita, e non solo la sua vita, ma anche di tutte le persone che aveva intorno, e lo univa costantemente a Dio. Pensate, questa è una cosa bellissima, anche durante le passeggiate, quelle poche volte che riusciva a farle, era capace di fermarsi, di inginocchiarsi in mezzo ai campi e di restare in raccoglimento come se fosse davanti all'altare. Sapete cosa faceva? Ringraziava Dio per la bellezza della natura, di questa natura che Dio aveva donato all'uomo. E spiccava in questi casi anche la sua devozione tenerissima per la Vergine Maria, che amava profondamente, come amava Gesù. Infatti per gli abitanti di Sogru, fratel Benildo era l'uomo del rosario, lo chiamavano, aveva sempre la corona con sé in tasca, per via, per i suoi ragazzi, quando andava a predicare. E tanti furono i miracoli ottenuti per sua intercessione. Pensate che un crocifisso a lui appartenuto viene ancora oggi, portato presso gli ammalati di Sogru, in questo paese, che con devozione lo accolgono, lo baciano, invocando l'intercessione del nostro santo. E allora proprio questa unione con Gesù lo faceva, possiamo dirlo, suo strumento eletto, e in molte occasioni ebbe anche il dono della profezia. Leggeva nei cuori delle persone e allora consigliava, suggeriva, dava speranza, dava vigore, ecco, anche nel cammino, soprattutto in quei periodi in cui molta gente era veramente povera, cioè era disperata, si sentiva abbandonata, e lui era un faro in questo caso, no? E per quanto riguarda proprio il dono della profezia, più volte e in varie maniere predisse addirittura la sua morte. Il Signore aveva fatto, diciamo, questo dono e sapeva quando sarebbe arrivato il momento. La sua esistenza poi in quegli anni, siamo negli ultimi anni, era anche minato da una grave malattia. E qualche anno proprio prima di morire, nella festa della Santissima Trinità, non potendo abbandonare il letto per rinnovare i voti, cosa fa? Si fece portare il libro delle regole, se lo strinse al cuore e pianse al pensiero di non averle osservate come avrebbe dovuto. I confratelli, viste le terribili sofferenze della malattia, si sforzarono di convincerlo almeno a dispensarsi almeno da qualche punto di esse, ma lui non ne volle sapere. Si sentiva in dovere di dare fino alla fine il buon esempio. E a chi gli chiedeva notizie riguardo alla salute rispondeva: quello che mi preme è di incominciare il mio viaggio per il cielo. A chi invece lo, diciamo, aveva pietà per i dolori che provava, lui diceva: le mie croci sono di paglia. Thank you. E qui, nel 1862, ultimo suo anno di vita, le forze lo abbandonarono e i dolori di un probabile cancro al fegato si fecero acuti. Ma lui, fra la costernazione dei fratelli e le preghiere della comunità di Saugus, continuò a compiere imperterrito i suoi doveri di direttore della scuola cristiana. Agli inizi di giugno dovette però mettersi a letto, alternando qualche raro giorno di miglioria che utilizzava per andare fino alle classi degli studenti, così per salutarli, dispensare i suoi ultimi consigli, quasi come un testamento spirituale. E questi ragazzi erano profondamente commossi dall'amore che vedevano anche in questi ultimi momenti, istanti della sua vita. E man mano il male avanzava, egli veniva a distaccarsi, ci viene detto, sempre più dalle cose terrene. La sua preghiera si faceva più intensa. Nell'ultimo giorno, dopo aver ricevuto gli ultimi sacramenti, con angelica e mistica gioia, fratel Benildo morì. Era, cari amici, il 13 agosto 1862. Aveva 57 anni, di cui oltre 40 di vita religiosa. Fu una perdita grande per tutti, per tutte le persone, non solo di quel paese, ma ovunque lui era stato. La tristezza fu enorme. E i funerali si svolsero giorni dopo, proprio il 15 di agosto, due giorni dopo, il giorno dell'Assunzione di Maria al Cielo. Si svolsero questi solenni funerali a cui parteciparono centinaia di persone, tutto il clero, i confratelli, gli alunni, ex alunni, le famiglie e anche chi tra quelli lo avevano criticato. E da quel giorno la fama di santità, già forte in vita, divenne costante con tanti pellegrinaggi alla sua tomba. E numerosi furono, dicevamo, le grazie, anche i miracoli, ottenuti per sua intercessione. E qui anche la Chiesa aprì la causa di canonizzazione nel 1903 e anni dopo, siamo nel 1928, fu dichiarato venerabile. Proprio in questa occasione Papa Pio XI pronunciò un memorabile discorso sopra, lo chiamò il terribile quotidiano, cioè sull'eroicità e sul sacrificio senza splendore, cioè nascosto, del nostro santo. Venne poi beatificato nel 1948 da Papa Pio XII e infine proclamato santo da San Paolo VI il 29 ottobre 1967. E proprio la domenica del 29 ottobre del 67 Papa Paolo VI lo canonizzò con queste parole, un piccolo sunto con la quale terminiamo la nostra trasmissione. Disse il Papa: «Venerabili fratelli e diletti figli, un santo nuovo noi abbiamo ora dichiarato appartenere alla Chiesa Celeste e doverlo la pensare ed onorare associato alla gloria di Cristo. Sì, fratelli e figli che guardate ora a fratel Benildo come a figura singolarissima e sapendola circonfusa durante la sua vita mortale di umiltà, di silenzio, di semplicità, quasi rimpicciolita dal quadro sociale in cui egli ebbe a trovarsi, voi tutti vi chiederete con noi quali siano i valori che diedero risalto alla sua nascosta esistenza, quale sia il titolo alla grandezza nella sua piccolezza, quale il segreto della sua esaltazione. E la risposta è facile, dice il Papa, è facile e pronta, la santità. Uno sguardo, per quanto rapido e superficiale, alla figura del santo che abbiamo davanti, ci lascerà intravedere che la santità è una forma di vita tutta riferita a Dio. E questa forma di vita, tutta rivolta a Dio, tutta sospesa nella risposta alla sua vocazione, tutta assorbita nell'orazione, nella preghiera e nell'osservanza degli atti propri della religione, tutta impegnata nella trasfusione delle somme verità religiose, nelle anime innocenti dei piccoli allievi, tutta pervasa di semplice e spontanea conversazione con Dio, con Cristo presente nell'Eucaristia, con la Madonna, con San Giuseppe, con i Santi, non è stata forse, dice il Papa, la forma di vita propria del nostro nuovo santo? Ha descritto praticamente la sua vita. E dice: «E nelle vostre mani, venerati fratelli e figli diletti, la sua biografia. Fu un maestro di scuola elementare e popolare, un maestro di un istituto quant'altri mai insigne e benemerito dell'istruzione e dell'educazione della gioventù. Un umile maestro, povero, malaticcio, in un paese di montagna. La professione stessa di maestro nasconde in se stesso un'esigenza di santità ed ha in sé una virtù che la genera. Dice il Papa, questo è un principio che proietta su tutta la classe magistrale una grande dignità e su tutta la famiglia religiosa dei fratelli e delle scuole cristiane una fondata presunzione di perfezione cristiana. Ed ecco che il titolo di maestro di scuola rurale ed elementare, esplode la sua virtuale bellezza nel santo che noi celebriamo, Fratel Benildo delle scuole cristiane, perché maestro fu e quale maestro? La sua biografia lo documenta, specialmente per i meriti che fanno anche di un oscuro insegnante un uomo grande e benefico. I meriti della sapienza, dell'abnegazione, dell'amore, e conclude il Papa. Ci basti la sentenza della Chiesa che lo dichiara santo per dare gioia al nostro spirito nel vedere associato questo altissimo titolo a quello di insegnante di scuola elementare e nel poter esclamare di Benildo con tutta la Chiesa santo e maestro. Ci sia concesso infine invitare in modo speciale a questa gioia tutta la Francia.